Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In calo la disoccupazione, ma aumenta quella giovanile. Secondo il CNEL non basteranno 6 anni per tornare ai livelli pre-crisi. L'Italia resta in deflazione, il credito all'economia, segnala Banca Italia, continua a contrarsi. Restano in piazza i contestatori di Occupy Central ad Hong Kong. Il capo del governo chiede di fermare le proteste, forse oggi un incontro. Una percentuale del costo dei biglietti dello stadio andrà alle forze dell'ordine, lo prevede un emendamento del PD al decreto sulla violenza appunto fuori dagli stadi, ne parleremo con chi lo ha proposto. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura parliamo della situazione economica italiana, ci sono i dati arrivati questa mattina dall'Istat e le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. I dati dell'Istituto di Statistica dicono che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 12,3%, in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente e dello 0,1% nei 12 mesi. Il tasso relativo alla fascia 15-24 anni è arrivato invece al 44,2%, in aumento di un punto rispetto al mese precedente e del 3,6% nei 12 mesi. Ci pensa poi il rapporto del CNEL sul mondo del lavoro a riconsegnare al mercato la sua complessità. Nella sua definizione più ampia, il tasso di disoccupazione è arrivato a superare il 30% e talvolta chi lavora non se la passa molto meglio. La quota di lavoratori a basso reddito è aumentata, superando i 2,5 milioni. L'ipotesi di un tasso di disoccupazione ai livelli pre-crisi, intorno al 7%, sembra poi un miraggio, perché richiederebbe la creazione di quasi 2 milioni di posti di lavoro nei prossimi 5 anni. Incursione del Consiglio nazionale sul dibattito in corso. In Italia è più facile licenziare che in molti altri paesi europei, compresa Germania, Francia e Olanda. Nel resto dell'eurozona la disoccupazione ad agosto è rimasta stabile all'11,5% e per il secondo mese di fila Berlino ha registrato un numero crescente di senza lavoro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo allarme sulla situazione del credito che continua a contrarsi in molti paesi, inclusa l'Italia. A lanciarlo questa volta il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso di un intervento alla conferenza sul Fiscal Compact alla Camera dei Deputati. Per il numero uno di Palazzo Koch, il finanziamento alle imprese in futuro dovrebbe provenire a misura crescente dai mercati dei capitali. In questa direzione, ricordava anche la presidenza italiana dell'Unione Europea. In una prospettiva di medio termine, però, è importante che il finanziamento delle imprese provenga in misura crescente rispetto a quanto avviene oggi dai mercati dei capitali, così da rendere il sistema produttivo meno dipendente dal credito bancario. Nel suo intervento Visco in realtà ha anche messo in luce gli aspetti positivi, principalmente la conquista della stabilità finanziaria nell'area euro, garantita da una serie di misure prese a livello nazionale ed europeo, dalla politica di rigore dei bilanci all'unione bancaria alle azioni di politica monetaria. Grazie all'insieme di queste misure, ha detto, le tensioni finanziarie nell'area si sono gradualmente smorzate. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Abbiamo sentito i dati sulla disoccupazione e anche un accenno al tema della deflazione da parte del governatore della Banca d'Italia Visco. Ebbene, oggi ci sono i dati proprio sull'inflazione, che nell'eurozona a settembre si attesta allo 0,3%, in leggero calo visto che il mese scorso era ferma allo 0,4%, ma ci sono anche i dati che arrivano dall'Italia. Secondo le stime provvisorie dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo si è attestato a un meno 0,1%, lo stesso valore toccato ad agosto, e dunque l'Italia resta sostanzialmente in deflazione. In apertura abbiamo parlato di lavoro. Come sapete, tutto questo è stato al centro della direzione del Partito Democratico di ieri. Resta ovviamente alta la tensione tra la minoranza del PD e la maggioranza, guidata naturalmente da Matteo Renzi, e sullo sfondo, più che i numeri che si sono avuti in direzione, ci sono i numeri in Parlamento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, non temo franchi tiratori al Senato, ha spiegato Matteo Renzi questa mattina prima di entrare a Palazzo Chigi. Ieri c'è stata una discussione seria, lunga, al termine della quale il partito si è espresso. Si tratta ora di definire il documento nelle varie fattispecie. Queste le parole del Premier, ma intanto la minoranza PD si prepara ad una lunga battaglia in Senato, dove i numeri, ricordiamo, sono molto esigui per il Premier. L'esame del Jobs Act inizierà la prossima settimana. Luigi Zanda prevede un emendamento emendamento sull'ordine del giorno della direzione, ovvero i 4 punti votati dalla direzione del PD, tra cui il reintegro per il licenziamento discriminatorio o disciplinare. Vannino Chiti, uno dei dissidenti, giudica un passo avanti quanto fatto ieri in direzione, mentre Stefano Fassina spiega che la minoranza non è divisa tra chi ha votato no e chi si è astenuto. Quindi, oltretutto, oggi pomeriggio ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri per la nota di aggiornamento, ovvero le misure che ha lanciato anche ieri Renzi: 1,5 miliardi destinato agli ammortizzatori sociali, TFR in busta paga, 2 miliardi per abbassare il cuneo fiscale. Simone? Sì, Elisabetta, l'attenzione però in questi minuti, in queste ore, si sta spostando sulle vicende che riguardano l'elezione dei membri del CSM e quelli della Corte Costituzionale. Là siamo ancora sulla fumata nera per quanto riguarda il secondo punto. Per quanto riguarda il primo punto, invece, c'è stato un problema per quanto riguarda la candidata laica del PD. Proprio così. Allora, intanto diciamo, come detto te, che il Parlamento si riunirà qui in seduta comune per eleggere i 2 giudici della Consulta, probabile un'altra fumata nera. Il candidato del PD resta Luciano Violante, mentre ancora non si è deciso quello di Forza Italia dopo il congelamento di Donato Bruno. Scoppia però il caso di Teresa Bene al CSM, candidata del Guardasigilli Andrea Orlando. Non è docente né ordinario, ma associato né avvocato effettivo da 15. Per Bene però sono stati violati i suoi diritti. A questo proposito è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sentiamolo. Sono naturalmente molto rammaricato di quel che è accaduto e probabilmente devo dire, mi permetto di dire, che può esserci stata qualche frettolosità e disattenzione nel pur così laborioso processo di selezione da parte del Parlamento dei suoi rappresentanti nel Consiglio Superiore della Magistratura. Il CSM ha poi proceduto all'elezione di Giovanni Legnini come vicepresidente del CSM. Ricordiamo che il presidente è il capo dello Stato. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito, e ci colleghiamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Con te però voglio ritornare sulla riforma del mercato del lavoro e su questa divisione che c'è stata all'interno del Partito Democratico, in realtà non così forte come forse ci si aspettava alla vigilia, e però testimonia una sorta di dominio assoluto su questo tema del Partito Democratico nel dibattito del Paese. Sì, è vero, questo non c'è dubbio. Il Partito Democratico è un partito in cui si discute, in cui ci si divide, in maniera a volte anche un po' incomprensibile. Questa spaccatura della minoranza effettivamente è un po' stravagante, però rimane pur sempre un centro di dibattito e discussione politica, cosa che non avviene purtroppo in molti altri partiti, anche quelli dell'opposizione, dove dovrebbe essere esattamente questo, diciamo, il senso della missione. E ovviamente c'è un po' di rimpianto per quelli che un tempo erano dei dibattiti più approfonditi su grandi temi, che fossero la politica estera o la politica economica, l'integrazione europea. Questo avviene molto meno oggi, e forse avviene poco anche nel Partito Democratico, al di là adesso di questa discussione intensa che c'è stata su un punto specifico, che è la riforma del lavoro. Senti Stefano, invece, per quanto riguarda la vicenda del CSM, questo fatto di Teresa Bene, candidata laica del PD e riconosciuta dal plenum del CSM come non avente i titoli per entrare appunto nel CSM, è un infortunio piuttosto pesante per il Parlamento e anche per lo stesso partito. Molto grave, un infortunio vero, che dice poco da aggiungere alle parole che ha detto Napolitano. Insomma, evidentemente le cose vengono fatte frettolosamente. Io credo che il Parlamento oggi non si possa permettere di questi errori. Stiamo parlando di un Parlamento che non riesce a eleggere i 2 giudici della Corte Costituzionale ormai da tempo, un Parlamento che insomma è messo in discussione, quantomeno il Senato, come sappiamo. Quindi io credo che sarebbe interesse di tutti, gli stessi parlamentari, dare di sé un'immagine migliore. Grazie anche per oggi a Stefano Folli per il suo punto, e saluto il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Ciao Beda, buongiorno. Buongiorno. Ti abbiamo chiamato perché la Commissione Europea sta indagando su una serie di aziende, tra cui Fiat, ma anche Apple, anche Starbucks, per aiuti di Stato. Ci spieghi come funziona e perché? Sì, in realtà l'indagine è stata formalmente aperta a metà giugno. Indagine che riguarda 3 società e 3 paesi. I paesi sono accusati in questo momento di avere offerto presunti aiuti di Stato a tre società: Apple per quanto riguarda l'Irlanda, Fiat per quanto riguarda il Lussemburgo e Starbucks per quanto riguarda l'Olanda. Questa è un'indagine, come dicevo prima, aperta a metà giugno e si basa sul fatto che, secondo la Commissione europea, queste tre società hanno siglato con questi tre governi degli accordi fiscali favorevoli che in realtà nascondono aiuti di Stato. Sono accordi fiscali che vengono firmati molto spesso da multinazionali in giro per il mondo, perché avendo filiali in vari paesi hanno bisogno di avere certezze su quanto pagheranno in imposta. Allora, la vicenda è abbastanza complicata e naturalmente molto tecnica, capiremo nei prossimi mesi come la decisione verrà presa, molto probabile che vi sarà una condanna di questi accordi fiscali, ma sono interessanti questi accordi fiscali perché sono il frutto di un sistema in cui le multinazionali cercano in un modo o nell'altro di pagare meno tasse, cercando di trovare degli accordi vantaggiosi con singoli governi. Ti ringrazio, grazie Beda Romano, e sicuramente approfondiremo nei prossimi mesi. Noi passiamo e torniamo, anzi, all'Italia, chiudendo però a questo punto la pagina economica, e parliamo dell'allarme terrorismo. L'allerta per la minaccia dell'ISIS in Italia è elevatissima. Lo ripete come un mantra il ministro dell'Interno Alfano. Il responsabile del Viminale spiega che non c'è una minaccia specifica per il nostro paese, che però fa parte della coalizione internazionale scesa in campo contro lo Stato Islamico, e questo lo espone a possibili ritorsioni da parte degli integralisti vicini al califfato. Per meglio contrastare le nuove minacce legate al terrorismo islamico, Alfano annuncia norme severe, in particolare misure che consentano di meglio controllare i soggetti considerati a rischio radicalizzazione. Del nuovo allarme terrorismo si parlerà oggi pomeriggio nell'attesa audizione del Presidente del Consiglio Renzi davanti al Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Quella dei raid aerei voluti da Obama è una decisione molto forte. Noi siamo pronti ad assicurare tutto il sostegno necessario, ma finora la richiesta è stata quella di supporto logistico e umanitario, ha spiegato il Premier in un'intervista al Washington Post. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni la decisione del prefetto su Luigi De Magistris, come sapete, come vi abbiamo raccontato, condannato, che potrebbe essere sospeso dalla carica di sindaco. Questa mattina si è difeso, intervistato dal nostro Alessandro Milan. Se la sospensione il prefetto la applica nella sua autonomia, non è un atto automatico e dovuto, siccome a mio avviso, nel caso mio preciso, per una serie di motivi tecnici non si applica, farò ricorso. Poi la sospensione, come tutti sanno, ma lo specifico, è a tempo, perché poi c'è il processo d'appello, tra l'altro la mia vicenda a fine anno si prescrive e quindi la sospensione poi decade automaticamente, e come ho detto un periodo di sospensione, anche nella malaugurata ipotesi che va tutto male, che dura 3-4 mesi, e ha solo effetti formali, ma io continuo a essere il sindaco di Napoli. Io rispetto la legge, rispetto le sentenze, ma se le sentenze sono intrise di ingiustizia o se in alcuni casi addirittura mi sono trovato di fronte a magistrati corrotti, non è questo il caso e l'ho dimostrato, io che sono un uomo delle istituzioni ho il diritto dovere di denunciarlo, altrimenti facciamo solo chiacchiere. Io invece sono andato all'autorità giudiziaria, l'ho giudiziata e l'ho denunciata, e questa cosa non me l'hanno mai perdonata, mai, da quando mi hanno fatto il processo disciplinare presieduto da Nicola Mancino, che oggi è imputato nella trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra, a seguire. Quindi che devo fare? Io continuo a andare avanti con la mia coscienza e so di aver fatto le cose giuste, il mio dovere. Così dunque De Magistris. Noi ci spostiamo all'estero, innanzitutto ad Hong Kong, perché proseguono le proteste. Ci colleghiamo in diretta con l'ex colonia britannica, dove si trova Antonio Talia. Antonio, buongiorno, qual è la situazione? Ciao Simone, a tutti gli ascoltatori. Allora, mi trovo ad Admiralty, che è uno dei centri della protesta. Anche oggi gli studenti e tutti gli esponenti del movimento di Occupy Hong Kong non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Cioè, ci sono davvero migliaia e migliaia di persone, bisogna tenere conto che anche del fatto che oggi le scuole erano chiuse. Si sono riversate qui e in altri punti della città, praticamente paralizzando di fatto il traffico. Insistono sulle loro richieste, quindi sulla minore ingerenza di Pechino negli affari interni e soprattutto sulle dimissioni del governatore Chi Wai Leung, che oggi ha risposto nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha ribadito che non si dimetterà mai, ha ribadito che Pechino non è intenzionata a mollare la presa, che quindi le richieste del movimento di Occupy Hong Kong sono irricevibili, e tra l'altro ha invitato il movimento facendole a smantellare le proteste. Ha detto che i leader si erano impegnati a smobilitare nel caso in cui la situazione fosse diventata ingestibile. Dal punto di vista del governatore la situazione è ingestibile perché, ribadisco, ci sono delle arterie completamente paralizzate. Allora Antonio, io intanto ti ringrazio per questi aggiornamenti e sicuramente torneremo a sentirti nelle prossime edizioni dei giornali radio e sicuramente in effetto giorno. Noi però adesso ci spostiamo nel nord dell'Iraq, dove le forze curde hanno lanciato un'offensiva su tre fronti. Le operazioni militari sono partite all'alba, si dispiegano a nord della città di Mosul, controllata dagli jihadisti, a sud della città petrolifera di Kirkuk, in una città al confine con la Siria. Intanto la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha effettuato la scorsa notte una serie di raid aerei su postazioni dello Stato Islamico intorno ad Ain al-Arab, ossia Kobane, la terza città curda della Siria, sulla quale i jihadisti stanno avanzando, e siamo praticamente al confine con la Turchia. Era là fino a stamattina l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che situazione hai trovato? Beh, la situazione è sempre più tesa perché il califfato è avanzato, le milizie del califfato sono avanzate praticamente a 1,5 km, 2 km dal confine con la Turchia. La Turchia a sua volta sta posizionando carri armati e blindati sulle colline intorno a Kobane, sul lato occidentale, e forse come una sorta di ammonimento nei confronti delle milizie jihadiste. Ma qui si sta svolgendo un po' una sorta di atto importante anche dal punto di vista politico, non soltanto militare, perché la Turchia di Erdogan finora è stata assai riluttante a partecipare alla coalizione internazionale, ma adesso con il califfato sul confine, sulla soglia di casa, probabilmente sarà costretta a fare qualcosa. Questa sera ci sarà presentata una mozione in Parlamento per un eventuale intervento militare in Siria e in Iraq. Bisognerà vedere se questo intervento sarà limitato al confine o si spingerà anche in territorio siriano. Certamente per Erdogan è una decisione difficile da prendere, perché scontrarsi con il califfato vuol dire in qualche modo rovesciare la sua politica estera in questa area, dove ha fatto passare migliaia di jihadisti negli ultimi anni nella speranza di abbattere il regime di Saddam Hussein. Un Erdogan che, come sapete tutti, è lanciato in una sorta di campagna di islamizzazione della società turca. Allora, grazie Alberto Negri per questi aggiornamenti. Noi ci fermiamo per il traffico e poi dopo parliamo di questa ipotesi di aumento dei biglietti dello stadio per pagare le forze dell'ordine che devono garantire la sicurezza. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Arriva un primo sì all'utilizzo in via sperimentale da parte della polizia della pistola elettrica Taser. Lo prevede un emendamento al decreto Stadi, nel quale si è deciso ieri di inserire che una percentuale del costo dei biglietti andrà alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. In calo la disoccupazione, ma aumenta quella giovanile. Secondo il CNEL non basteranno 6 anni per tornare ai livelli pre-crisi. L'Italia resta in deflazione, il credito all'economia, segnala Banca Italia, continua a contrarsi. Sarà l'ex sottosegretario Legnini il vicepresidente del CSM, mentre la candidata laica del PD, Teresa Bene, votata dal Parlamento, è stata dichiarata ineleggibile dal Plenum. Dopo la vittoria schiacciante di Renzi nella direzione del PD, il vero banco di prova sarà il Senato, dove la minoranza è forte. E restano in piazza i contestatori di Occupy Central ad Hong Kong. Il capo del governo locale, chiede di fermare le proteste. Saluto Emanuele Fiano, responsabile sicurezza del Partito Democratico. Benvenuto Fiano. Buongiorno. Buongiorno. Con lei tra un attimo parleremo di decreto Stadi, ma prima togliamoci il dente CSM. È un bell'infortunio questo di Teresa Bene. Sì, niente di terribile, Non è che sia stato commesso un reato, c'è stata probabilmente una una mancata attenzione su un elemento dei requisiti che servivano per entrare al CSM, porremo rimedio. Il CSM può comunque lavorare. Benissimo, allora veniamo al decreto Stadi, quello che la riguarda un po' più direttamente, no? per il suo ruolo, e partirei dall'ultima notizia, cioè un quarto d'ora fa è stato approvato questo emendamento che prevede l'utilizzo in via sperimentale da parte della polizia della pistola elettrica Taser. È chiaro, in questo momento i giornali online ci stanno aprendo perché accende la fantasia questa cosa. In realtà l'abbiamo approvato ieri, queste sono le cose del fantastico mondo dell'informazione, abbiamo provato insieme. Lo so, abbia pazienza, siamo così, no. Prego. No, voi non c'entrate niente. Beh sì, abbiamo anche noi dato il nostro voto favorevole a questa che è una sperimentazione della pistola elettrica, abbiamo, come mi pare riportino tra l'altro i siti online, incluso l'aspetto del nulla osta del Ministero della Salute, perché bisogna essere sicuri che gli strumenti che vengono utilizzati non possano provocare danni anche gravi alle persone che eventualmente ne sono oggetto. Però al di là del fatto che apriamo solamente una fase sperimentale e che sarà necessaria ogni massima cautela per la salute, è uno strumento che può permettere di evitare alcuni degli incidenti che sono stati visti in questi anni, perché permettono di tenere a distanza, diciamo così, il confronto tra forze dell'ordine e eventuali malviventi. E adesso vediamo l'altro elemento, quello che sicuramente farà discutere, e per questo saluto anche Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, all'onorevole Fiano e a tutti gli ascoltatori. Ed è la questione del fatto che le società di calcio dovranno pagare, se naturalmente poi la cosa sarà approvata definitivamente, il decreto Stadi sarà approvato nella forma nella quale l'avete emendato ieri, Fiano, dovranno pagare una parte dei costi della sicurezza. Come funziona? Ce lo spiega? È semplice, noi abbiamo ascoltato dalle parole del capo della polizia in audizione, in commissione, proprio su questo provvedimento, che ancor prima dell'approvazione del decreto che il governo ha presentato, cioè questo sulle nuove strumentazioni di legge, le nuove fattispecie di utilizzo del DASPO, eccetera, già l'anno scorso è aumentato il costo dell'utilizzo delle forze dell'ordine, i costi straordinari per la sicurezza dentro e fuori gli stadi e anche il numero di persone che sono utilizzate per questa sicurezza. Ovviamente noi siamo in un periodo di grandi ristrettezze economiche, come tutti noi sappiamo, come tutti i suoi ascoltatori sanno, e di grandi tagli alla spesa pubblica del Paese. Noi abbiamo pensato, presentando questo emendamento, che un contributo delle squadre di calcio rispetto ai loro introiti, che permetta di pagare ovviamente la parte straordinaria di queste spese, perché la parte ordinaria è un diritto costituzionale di chiunque, spettatore di una partita di calcio oppure passante fuori da uno stadio, quindi gli stipendi delle forze dell'ordine sono comunque pagati dallo Stato, ma ci sono stati l'anno scorso 25 milioni di spese per gli straordinari delle forze dell'ordine e per le indennità di ordine pubblico. Noi abbiamo pensato che, seguendo un principio di sussidiarietà, che peraltro viene utilizzato anche in altri campi, fosse giusto dire al Paese che le squadre di calcio, che poi sono protagoniste di uno spettacolo bellissimo, che è il più grande spettacolo di intrattenimento del nostro Paese, possono dare il loro contributo a questa spesa straordinaria. A valere sui biglietti, immagino. Sì, sull'introito, adesso poi entro domani magari saranno presentate anche delle modifiche, a valere sugli introiti delle squadre di calcio, adesso vedremo esattamente. Beretta, vi spaventa questa cosa? L'ipotesi, insomma, che con stadi che si fa difficoltà a riempire, insomma, un incremento dei costi in una fase di crisi possa danneggiare ulteriormente l'afflusso di spettatori? Certo, devo dire, il provvedimento, così come viene, ci preoccupa molto, ci preoccupa per la sua realtà e per il precedente che rischia di costituire. Io penso, adesso, poi se l'onorevole Fiano è così gentile magari da darci qualche chiarimento, però io vorrei dire intanto che le società di calcio sono contribuenti, e contribuenti anche significative come tutti gli altri, e diciamo penso che sia, non sia facile stabilire che cosa è, come dire, ordinario e straordinario, perché evidentemente dipende, diciamo, dai modelli organizzativi. I più rischiano di pagare, diciamo, in qualche modo a piedi lista delle organizzazioni fatte, come dire, con assoluta professionalità, perché io devo ringraziare tutti i giorni le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro che fanno, ma come chiunque può facilmente capire, con il meccanismo che si ipotizza, cioè qualcuno decide giustamente con un suo alto livello di professionalità come operare e un altro paga, rischia di pagare a valle dei costi su cui non ha alcuna possibilità di intervento. In più, devo dire, l'1 o il 3% sono due realtà molto, come dire, molto diverse, poi possiamo capire che cosa significano come impatto. E ripeto, soprattutto, diciamo, è difficile capire, poi questa cosa è destinata al calcio, come si dice, o agli eventi sportivi, che mi sembra una definizione più larga, come è scritto nel testo dell'emendamento. E cioè, io penso che ci siano tante cose su cui è necessario fare chiarezza. Devo dire, spiace anche di trovarsi questa, diciamo, sorpresa senza nemmeno, come dire, un minimo confronto, e credo che questo sia un rammarico legittimo. La riassumo e poi facciamo rispondere Fiano. La sostanza è, signori, noi le tasse già le paghiamo, no, mi sbaglio, Beretta, questo è il primo punto, vado molto brutale. Il secondo elemento è, rischiamo di scaricare su spettatori che non c'entrano nulla anche i costi di quelli che invece compiono violenze. Fiano. Ma intanto parto dalla fine e saluto il dottor Beretta. Noi avevamo, appena prima di pensare a questo emendamento, per la verità, audito in Commissione Affari Costituzionali della Camera il presidente Tavecchio, quindi avevamo ascoltato e a lui erano state poste peraltro dei quesiti proprio riguardo a questo punto, quindi una parte di confronto c'è stato, ma siamo all'inizio di un processo legislativo, quindi mi auguro, dottor Beretta, che per il tramite di Radio 24 oggi stabiliamo un contatto che possa continuare prima della completa legislazione di questo punto. In secondo luogo parto dall'ultima considerazione che lei ha fatto, mi auguro proprio il contrario, cioè mi auguro proprio che il mondo del calcio professionistico non vorrà come dire, ribaltare sugli utenti di questo meraviglioso spettacolo, quindi sugli spettatori degli stadi, questo onere che noi consideriamo giusto in virtù della straordinarietà della gestione della sicurezza che, unico nel suo campo, il mondo del calcio, nel mondo dell'intrattenimento, diciamo, sociale e collettivo del nostro paese, porta nei confronti degli oneri delle forze dell'ordine. Quindi noi pensiamo che ci sia una straordinarietà dovuta a un fatto positivo, che tantissima gente va allo stadio, che ci siano episodi di violenza ripetuti nonostante lo sforzo delle forze dell'ordine è sotto gli occhi di tutti. Questa straordinarietà ha un costo straordinario che chiediamo venga in parte coperto da un onere attribuibile alle squadre di calcio. Dopodiché incontriamoci, vediamo quali sono i dettagli, ma sul principio penso che sia difficile da un punto di vista etico non corrispondere. Altre forme di intrattenimento, voglio ricordare. Fiano, però guardi, siamo praticamente in chiusura. 1 o 3%, molto brevemente, in 10 secondi. Guardi, noi vogliamo che vengano coperti quei 25 milioni di costi straordinari che le forze dell'ordine hanno avuto nell'anno scorso. Vedremo a cosa corrisponde circa l'introito delle squadre di calcio questi 25 milioni. Beretta, brevemente, in 10 secondi, soddisfatto della spiegazione, no, immagino? Guardi, io mi permetto di dire che 25 milioni di euro sono il fatturato di molte società di calcio. Forse bisognerebbe cercare di avere chiaro il quadro, e che molte di queste società, come dire, hanno bilanci comunque in tensione, quindi noi in realtà con questa operazione rischiamo di scaricare oneri su realtà anche importanti che poi sono chiamate a competere all'estero, sono chiamate diciamo, a fare tutta una serie di attività. Io ricordo già che tutta la sicurezza all'interno degli stadi, che peraltro sono pubblici, è pagata dalle stesse società direttamente attraverso gli steward. Quindi io credo che si stia però cercando di, come dire, addossare un peso su delle realtà che già ne sopportano una parte molto molto molto significativa. Ringrazio l'onorevole Fiano per la disponibilità a un confronto. Io credo che se andiamo a guardare numeri e cose nella loro complessità, penso che sarà più facile, come dire, capire bene di che cosa, diciamo, di che grandezze stiamo parlando e di che impatti rischiano di avere nel loro complesso. Poi ovviamente abbiamo il massimo rispetto del legislatore, come è giusto che sia. Grazie a Maurizio Beretta, grazie ad Emanuele Fiano. Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio, ed Emanuele Fiano, responsabile di sicurezza del PD. Pausa, poi la borsa e poi ci ritroviamo per riparlare di riforma del mercato del lavoro. Sentiremo la parte sindacale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Saluto Carmelo Barbagallo, che è segretario generale aggiunto della UIL, in pole position per sostituire il segretario Luigi Angeletti, se ne andrà tra un mese se non sbaglio. Barbagallo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Come le sembra l'ipotesi di nuova formulazione dell'articolo 18 che è emersa ieri dalla direzione del Partito Democratico? È un'apertura? Vi può dare una certa soddisfazione? Secondo me no. Renzi è molto bravo a dividere il paese e naturalmente lui si schiera con i più forti. Le dichiarazioni anche fatte stamattina sul Washington Post dicono che lui vuole le imprese che siano libere di assumere chi vogliono e di licenziarle quando vogliono. Quindi i lavoratori giovani sono avvertiti, perché nei rapporti di forza fra i lavoratori giovani, i disoccupati e le imprese, Renzi si è schierato con i poteri forti. Lei dice Renzi si è schierato con i poteri forti, e però c'è stata anche un'apertura al dialogo che finora non aveva caratterizzato il Presidente del Consiglio. Ha detto: sono pronto a riaprire la sala verde ai sindacati. Anche noi siamo pronti, però per parlare di cose concrete, per cambiare veramente verso a questo paese. Questo è un paese in declino e anche in rischio di estinzione. Abbiamo le coppie che fanno 1,48 figli a coppia, siamo sotto la parità. Nel futuro, siccome si prolungherà la vita, dovremo cambiare completamente la condizione del lavoro, dando stabilità ai giovani e flessibilità in uscita. La manovra che ci presenta Renzi sul lavoro è invece un feticcio che deve portare in Europa, che serve soltanto a lui e non ai giovani, non ai disoccupati e non al mondo del lavoro. Forse non l'ho specificato per gli ascoltatori: la sala verde è la sala di Palazzo Chigi, la sede del governo, dove insomma in genere vengono ricevuti e si fanno queste riunioni con i sindacati, con gli industriali, insomma con le parti sociali. Vorrei capire questo: non mi sembra che ci sia unità di intenti con gli altri sindacati sulle azioni da intraprendere per contrastare quella che ritenete evidentemente una riforma ingiusta? Noi abbiamo detto, siccome la CGIL ha avanzato le sue proposte, non è disponibile a ritornare indietro, la CISL ha avanzato le proposte, non è disponibile a tornare indietro, noi abbiamo detto le nostre cose, siamo disponibili sempre a fare azioni unitarie nel territorio e fra le categorie, ma certamente non dobbiamo andare appresso a nessuno. Noi abbiamo le nostre posizioni, abbiamo mandato il documento al governo, abbiamo chiesto l'incontro, abbiamo chiesto anche alla segreteria unitaria, e però sarebbe opportuno ripensarci, almeno per loro, per vedere cosa facciamo. Grazie a Carmelo Barbagallo, segretario generale aggiunto della UIL, per le sue valutazioni. Ma in sostanza, che cosa prevede questa nuova ipotesi di formulazione dell'articolo 18 portata ieri in direzione del PD da Renzi? Sentiamo. Prima, durante e dopo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla sua nascita ha attraversato già due cicli di vita e si prepara ad attraversarne un altro. Questo articolo della legge 300 del 20 maggio del 1970 si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti, 5 se sono agricole, e il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. Il vecchio articolo 18, a cui si è aggiunto l'aggettivo vecchio dopo la legge Fornero del 2012, prevedeva una sola sanzione, scelta obbligata per il giudice in caso di licenziamento illegittimo, intimato, cioè in violazione dei limiti di legge, il reintegro nel posto di lavoro e insieme il risarcimento del danno in misura pari alle mensilità perdute e i contributi non versati a partire dal licenziamento fino al reintegro con un minimo di 5. Poi la legge Fornero 92 del 2012 ha modificato il testo dell'articolo 18 prevedendo diverse opzioni al posto di un'unica tutela reale. Le nuove norme superano l'automatismo tra licenziamento ritenuto illegittimo e reintegrazione del lavoratore, distinguendo tra tre tipi di licenziamento: discriminatorio, disciplinare ed economico. Con la riforma Renzi e il terzo ciclo di vita all'orizzonte dell'articolo 18 si annuncia la conferma della tutela reale per i licenziamenti discriminatori, per cui non cambierebbe nulla, così come avviene in tutta Europa, e il reintegro pieno resterebbe anche per quelli disciplinari ingiustificati, tipizzando la casistica. Solo per i licenziamenti economici verrebbe sostituito da un indennizzo crescente con l'anzianità in azienda e quindi scomparirebbe. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. C'è una notizia appena battuta dalle agenzie, anche se non molto chiara in merito al tipo di inchiesta di cui si tratti. Apprendiamo solamente che un avviso di garanzia è stato notificato questa mattina dai carabinieri del NOE al segretario generale della regione Lombardia, Andrea Gibelli. Si tratta dell'accusa turbata libertà di scelta del contraente nell'ambito di un'inchiesta affidata al PM Fusco, in cui risulta indagato tra gli altri il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Naturalmente, appena avremo maggiori dettagli, maggiori aggiornamenti, come sempre in questi casi ve li daremo. Intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo come sempre con Mario Platero. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, ve devo dire, spesso ci occupiamo qui un po' attraverso sola andata, quindi storie di persone che arrivano negli Stati Uniti per restare un po', dando consigli a chi vuole sapere come si può venire in America a lavorare con un visto. Ecco, ci siamo occupati della questione vivere in America. E perché vi parlo di questo? Perché la settimana scorsa, lunedì scorso, quando ero a San Francisco, ho sentito il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha fatto un passo in avanti rispetto a quella che era la tipica cultura che c'era in Italia sui cervelli in fuga, su coloro che vogliono davvero prendere un biglietto di sola andata. Sentiamolo. Quindi io non credo e non cedo alla cultura del solito racconto, ecco ci sono i cervelli in fuga, che poi cervelli in fuga è sempre un'espressione un po' strana, i cervelli all'estero, e soprattutto non farò il solito discorso che fanno tutti. Vi chiedo di tornare in Italia? No, io vi chiedo di andare avanti, non vi chiedo di tornare a casa, vi chiedo di andare avanti e di cercare di cambiare il mondo con le vostre idee, con la vostra passione, con la vostra determinazione. Da parte nostra faremo di tutto per cambiare l'Italia. Ecco, dunque, Matteo Renzi chiama, America 24 risponde. Perché? Perché vi ho detto, noi di queste cose ci siamo occupati e dunque vorrei dedicare la puntata di oggi proprio a questo, a venire negli Stati Uniti per lavorare. Ci sono circa 3 milioni di persone che arrivano ogni anno per lavorare in America con vari visti, persone grosso modo fra i 25 e i 54 anni, c'è la carta verde, quasi 1 milione di persone hanno avuto la carta verde nel 2013, cioè il permesso di residenza, 66% grazie a relazioni familiari con cittadini americani, molti vengono dal Messico, dalla Cina, dall'India, 158.000 hanno avuto la carta verde grazie alla sponsorizzazione di un'azienda americana, 45.000 grazie alla lotteria, perché ci sono delle quote per esempio riservate agli italiani. Però ci sono ostacoli, ci sono casistiche diverse, io ovviamente non sono un esperto, e dunque in questa puntata che possiamo chiamare una variazione di solo andata ho con me Annalisa Liuzzo, che è un avvocato italiano che lavora a New York e che si occupa Europa, proprio di visti e di immigrazione. Buongiorno Annalisa. Buongiorno. Ecco Annalisa, quando parlo ai nostri ascoltatori racconto storie di gente che è venuta qui e ha trovato fortuna, ha trovato una vita in America, in fuga da un'Italia magari molto difficile. Noi su America 24, sul nostro sito, abbiamo un servizio per cui ci accorgiamo che una delle domande più ricorrenti dei nostri lettori è proprio come si arriva in America per poter lavorare? E dipende dalla situazione, bisogna sempre avere la società che sponsorizza la persona per poter venire qui. Inizialmente di solito iniziamo con un J1, che sarebbe il visto per i tirocinanti. J1 vuol dire tirocinanti e anche studenti che vogliono venire qui a studiare. Sì, universitari che sono già in procinto, stanno già studiando. Poi c'è pure il visto H1B, che sarebbe il visto per i laureati in certe materie necessario per svolgere le mansioni della posizione offerta dalla società americana. L'L1 per gli impiegati che vengono trasferiti dai filiali stranieri ai filiali americani, e poi l'E2 che è un visto basato sul trattato che abbiamo in vigore da tanti anni con l'Italia, sotto la quale gli italiani possono stabilire le società qua, investire negli Stati Uniti e fare a loro farsi sponsorizzare per le visto, oppure anche sponsorizzare altri italiani a lavorare per loro con questo visto E2. Ecco, ma se qualcuno viene, diciamo come capita spesso, perché l'immigrazione illegale non c'è soltanto dai confini meridionali, dal Messico, c'è anche dall'Europa, c'è anche dall'Italia, dalla Romania, dalla Gran Bretagna, dappertutto, perché ci sono dei numeri chiusi e non tutti riescono a venire, oppure a vincere la lotteria. C'è anche la lotteria, è vero che si può vincere? Sì, una volta all'anno diamo 70.000 carte verdi o residenze all'anno. Come si fa la lotteria? Il Dipartimento di Stato annunci un periodo entro la quale chiunque potrà ripresentare una richiesta per una carta verde. Di solito si tratta tra ottobre o dicembre, questo periodo è gratis, è un modulo ma molto molto semplice online che si fa, e di solito un paio di mesi dopo, tipo maggio dell'anno entrante, c'è l'annuncio di chi è stato selezionato. E quindi diciamo lì ci vuole però il colpo di fortuna. E se qualcuno viene e, che ne so, decide di mettersi a lavorare, non so, in un ristorante, e di fare un percorso tradizionale, vecchio stile, si riesce a vivere? È difficile? È possibile poi avere un visto, oppure è complicato? Quello che io vedo di solito sarebbe l'italiano che viene qui come turista, si trova bene, si trova per esempio la posizione come cameriere o lavorando in ristorante, stanno bene, guadagnano e non vogliono rientrare. Il problema è che se aspettano troppo poi si trovano bloccati qua clandestini senza possibilità di poter aprire un conto corrente, prendere un patente o neanche visitare mamma, se casomai devono tornare in Italia, perché una volta che escono, dopo essere stati qui clandestini per un certo periodo, non potranno mai rientrare negli Stati Uniti. Perciò io suggerirei a chiunque ha l'intenzione di venire qui e trovare il lavoro di mettersi d'accordo con un professionale, un professionista, un avvocato, che potrebbe aiutargli a mettere insieme un piano di come fare, così rimangono sempre liberi a poter rientrare in Italia e poi a vivere qui come dovrebbero poter vivere, con tutti i privilegi che hanno gli stranieri residendo qua. Annalisa, ma lei è nata qui, ma i suoi genitori come sono venuti? Mia mamma è venuta con una grande immigrazione di italiani negli anni 50 e mio padre è venuto qui con un visto di lavoro negli anni 70 lavorando per una società che si chiama Agip, poi si chiamava Agip. Agip, che esiste tuttora, devo dire. Sì. Ancora, okay. E quindi si sono incontrati, si sono sposati e il resto, come si dice, è storia. Esatto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho ancora con me il microfono di America 24, Annalisa Liuzzo. Annalisa, una canzone americana simbolica, così, dell'immigrazione, una canzone che le piace, qual è? Io farei I'm Proud to Be an American by Lee Greenwood. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say. È tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faginini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.